il giusto perisce e nessuno se la prende a cuore. I pii sono tolti di mezzo senza che alcuno lo noti. Sì, il giusto è tolto di mezzo a causa del male. Entrerà nella pace. Riposano sui loro giacigli quelli che incedono per la retta via. Appressatevi voi, figli della maga, stirpe dell'adultero e della prostituta. Di chi vi burlate voi? Contro chi allargate la bocca ed allungate la lingua? Non siete voi forse figli ribelli, stirpe menzognera? Voi che vi eccitate fra i terebinti, sotto ogni albero verdeggiante, immolando bambini nelle valli, nelle fessure delle rocce. Tu hai la tua parte tra le pietre del torrente. Sono esse la tua porzione. Anche per esse tu hai versato libagioni, hai presentato offerte. Forse dovrei consolarmi di questo? Sopra un'alta ed elevata montagna hai collocato il tuo giaciglio. Anche là sei salito per offrire sacrifici. Dietro la porta e gli stipiti hai posto il tuo memoriale. Sì, lontano da me hai scoperto il tuo giaciglio, vi sei salita, l'hai allargato, hai patteggiato con quelli con cui amavi giacere riguardando il monumento. Con olio sei corsa verso Moloch, hai moltiplicato i tuoi profumi, hai inviato lontano i tuoi messaggeri, li hai fatti discendere fino allo Sheol. Ti sei affaticata per la quantità dei viaggi, ma senza dire: è una disperazione. Hai ritrovato il vigore della tua mano, per cui non ti senti debole. Di chi avevi timore? Di chi avevi paura per dire menzogne? Di me non ti sei ricordata, non te ne sei presa cura. Non sono io forse rimasto silenzioso e non ho chiuso gli occhi mentre tu non hai avuto timore di me? Io proclamerò la tua giustizia e le tue opere, che non ti portano alcun giovamento. Alle tue grida ti salvino gli idoli che hai radunato. Il vento li porterà via tutti, il soffio se li prenderà. Ma chi si rifugia in me possiederà la terra ed avrà in eredità il mio santo monte. E si dirà: selciate, selciate, appianate la via, levate ogni ostacolo dalla via del mio popolo. Perché così parla l'Alto e l'Eccelso, colui che risiede eternamente, il cui nome è Santo. Risiedo in un luogo elevato e santo, ma sono anche con il contrito e l'umile per rianimare lo spirito degli umili e risollevare i cuori contriti. Giacché io non faccio lite in eterno, non mi irrito per sempre, se no verrebbe meno al mio cospetto lo spirito e le anime che ho creato. Per il suo iniquo guadagno mi sono irritato, nascondendomi. L'ho percosso nella mia irritazione, ma egli, ribelle, camminò per le vie del suo cuore. Ho visto le sue vie, ma io lo guarirò, lo guiderò, gli concederò il conforto. A quanti dei suoi sono afflitti, pongo sulle labbra la lode: pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore, io lo guarirò. Ma gli empi sono come un mare agitato che non può calmarsi, le cui acque rigettano melma e fango. Non vi è pace per gli empi, dice il mio Dio.